all'inmila e lì gestisci un lanciano di mia 24 mattino. Signori, siamo qui, sono le 7:19 minuti, siamo pronti a leggere i giornali in quella che è la rassegna stampa di 24 mattino, ultima puntata della settimana, prendete nota perché domani ponteggiamo, domani 2 giugno non siamo in onda. E allora, caro Filippo Aureggi, eccoci qui in regia, andiamo, non a comandare, andiamo con i giornali. Oh, non sanno di che parlare i giornali, eh. Siamo arrivati a giovedì 1 giugno con i titoli, le aperture che sono dedicate soprattutto alle considerazioni finali del governatore di Banca Italia Ignazio Visco. L'apertura del Sole 24 Ore, sforzo eccezionale per superare la crisi, queste le parole di Visco, crisi bancarie da risolvere subito. Per il Corriere della Sera, e ogni quotidiano sceglie una frase di Visco, Italia vulnerabile, il debito ci frena, ora si intervenga. Per Repubblica invece la politica rissa, PD Alfano verso il voto a ottobre, Banca Italia, l'emergenza è il lavoro. E come stridono queste due frasi, messe a fianco nel titolo di Repubblica. La Stampa, Banca Italia, servono sforzi eccezionali. Mentre il Messaggero, abbattere il debito per risalire, è sempre una frase di Visco. Il Giornale, Alfano scaricato da tutti. Il Fatto Quotidiano, Davigo, i governi PD peggio di Berlusconi, e Di Matteo, che è un magistrato, apre ai 5 Stelle. Questo è il titolo di prima pagina. Avvenire invece guarda al mondo. Trump rovina il clima. Il presidente è deciso a uscire dall'intesa di Parigi, come era stato accennato. La Verità invece, pezzi d'Italia fuori controllo con la pistola d'acqua contro i criminali, aggressioni nelle stazioni di Milano e Roma, violenze a Ferrara, a Torino nell'ex MOI non si entra perché gli immigrati sono troppi. E poi si mette questa notizia a fianco a quella della decisione del sindaco Nardella di innaffiare le piazze di Firenze contro il bivacco, ma usiamo gli idranti per cacciare i turisti, mentre la situazione italiana è questa. Questo è il titolo della Verità in prima pagina. Voglio partire da questa notizia di cronaca che abbiamo sentito anche nel giornale radio con Valentina Furlanetto. C'è da dire che è quasi anche difficile raccontarla, approcciarla, perché cosa si può aggiungere di quello che è successo a Settimo Torinese con questa donna che ha confessato di avere partorito e poi buttato, proprio non c'è altro termine da utilizzare, buttato il neonato maschio dal balcone, e poi è stato raccolto da due operatori ecologici, nei turbini che erano lì, e non ce l'ha fatta. Questo piccolo neonato, che è stato chiamato Giovanni dagli operatori in ospedale dove è arrivato, ma subito dopo è morto, vissuto poche ore e ucciso. Il racconto, e tralasciamo quello che appunto abbiamo sentito anche nella bacheca Facebook di questa signora, si sta vomitando il peggio del peggio dell'Italia, che è, non dico peggio tanto quello che del gesto che ha fatto, ma insomma ci siamo quasi, almeno nell'odio. Però cosa è successo? La cronaca. Marco Bardesono racconta sul Corriere della Sera, pagina 20. Giovanni, vissuto poche ore, ucciso. La mamma dice: temevo fosse malato. In realtà ha detto varie cose in questa sua confessione, anche confusa. Ha detto: non volevo il bambino. Ha detto anche: non mi sono mai accorta della gravidanza. Una frase che è abbastanza improbabile. L'ho gettato dal balcone, non ricordo nulla dopo il parto. E anche ha detto: il mio compagno non sapeva nulla. E anche il compagno dice: mia moglie è incinta, non sapevo. Eppure ha sempre avuto il ciclo in questi mesi. E la donna, che forse nell'unico attimo di lucidità, dà una spiegazione a questa follia: non volevo quel bambino perché mio marito soffre di una sindrome neurologica che nostra figlia di 3 anni ha ereditato. In ogni caso, ovviamente trovate molto di questa cronaca terribile da affrontare anche nella lettura. Paura e normalità prima dell'orrore, così la mamma ha ucciso il neonato. A chi diceva come va, ma come, cos'è la pancia, sono ingrassata, insomma negava un po' la gravidanza, o non so se la negava o la negava se stessa, non si capisce, insomma, in questo confuso interrogatorio. Trovate però sulla stampa, soprattutto sul Corriere della Sera, una pagina dedicata a questa vicenda di cronaca. Voglio saltare però sul Fatto Quotidiano, ho letto qualche titolo relativo agli stranieri. Bisogna dire, ogni tanto sui social bisogna stare attenti, e non mi riferisco a Trump, che di notte scrive delle parole per le quali poi ora si sta interrogando tutto il mondo sul significato, come coffee, ha scritto questa parola un po' bizzarra, visto che non esiste nel vocabolario americano, ma in questo caso anche Giovanni Toti, governatore della Liguria, è stato pizzicato con un post su Facebook per il quale il Fatto Quotidiano va a chiedergli conto, con Ferruccio Sansa oggi in prima pagina. Cosa è successo? Che attorno a luna di notte, un paio di giorni fa, c'è un commento sulla pagina Facebook di Toti: «Bravo presidente, quando rimpatriamo queste bestie straniere?» E il governatore della Liguria, Toti, non fa una grinza e risponde a tono: appena andiamo al governo. Purtroppo la regione non può far nulla in questo campo. Era luna di notte, e come? Bestie straniere? Giovanni Toti, intanto chi ha scritto questo post? Io. Toti dice: sono stato io. Non nessun altro. Io ho risposto. Ma scusi, il signore che ha scritto parlava di bestie straniere, un po' forte come concetto, no? Io ho fatto il giornalista e sappiamo come si fa un titolo, come si usano le parole. Per me bestia è chi commette reati. Ci sono anche bestie italiane, mica quelle possiamo mandarle a casa, dobbiamo tenercele. Chi delinque è una bestia, chiede il Fatto. Applicando il sillogismo alla Hegel, anche Silvio Berlusconi, condannato in Cassazione, sarebbe una bestia, no? O sbaglio? No. La gente, quella che ha paura, che vive nell'insicurezza, non ce l'ha coi reati dei colletti bianchi, la corruzione, l'evasione. Ce l'ha con le violenze del branco, gli scippi, gli stupri, i furti in casa. E soprattutto con gli immigrati, Toti. Io intendevo stranieri, non necessariamente immigrati. Ah, intendeva svedesi, norvegesi? Io pensavo a quegli stranieri che arrivano e non si conformano alla nostra cultura giudaico-cristiana, a quelli che non vogliono rispettare le regole, gente che arriva e approfitta dell'ospitalità che gli diamo e poi commette violenze e spaccia. Gente così, appena viene presa, deve essere cacciata nel suo paese. L'abbiamo sempre detto. A casa. È scritto anche nel nostro programma: chi non ha il permesso di soggiorno, chi non ha il diritto di stare in Italia, deve essere rimandato nel proprio paese, senza razzismi. Ce l'avevo con gli stranieri, mica con gli immigrati, è il titolo dell'intervista di Ferruccio Sansa al Fatto Quotidiano. Fatto Quotidiano che ieri, se ricordate, se eravate qui attenti nella rassegna stampa, ha raccontato come gli eurodeputati, non solo italiani ma tutti, gestiscono i 4.342 euro mensili che hanno per le spese di rappresentanza e di ufficio. Ebbene, su questa storia oggi Ivo Caizzi racconta che il grigio, la nebbia, il mistero non c'è solo per gli eurodeputati italiani. Sentite qui il caso dell'eurodeputato tedesco nei guai proprio per questa indennità, 4.342 euro al mese. Ufficio fantasma a casa. Ah, questo è un gran classico. Molti che mettono la sede dell'ufficio o a casa, nella propria residenza, oppure a 50 metri da casa e si prendono legittimamente 4.342 euro al mese dall'Europarlamento perché sono senza rendicontazione. Te lo diamo, questi 4.342, fanne ciò che vuoi. Il presidente, tra l'altro, del gruppo degli eurodeputati del Partito Popolare Europeo è il tedesco Manfred Weber, che è in imbarazzo, scrive Ivo Caizzi del Corriere della Sera, per l'uso del rimborso dell'Europarlamento per le spese dell'ufficio nel paese di provenienza. Ha incassato i 4.342 euro mensili per uno spazio in un edificio di sua proprietà adiacente a casa sua in campagna in Baviera. Questo è emerso nell'ambito dell'inchiesta del consorzio di giornalisti investigativi MAPS Project, che ha indagato sulla destinazione di circa 40 milioni annui di denaro pubblico per gli uffici locali di 748 eurodeputati. E ha individuato cosa? Uffici fantasma, uffici mai esistiti, autoaffitti di locali, autoaffitti di una parte della propria casa. Beh, è straordinario. C'è gente, eurodeputati, che si autoaffittano una parte della propria casa e la fanno risultare come ufficio, intascano così 4.442 euro al mese. Comunque, il capogruppo del PPE dice: è tutto in regola, sì, sono sicuro, è tutto a norma, tutto in base alle regole, in maniera stringente, sono certo che la regola è rispettata. Autoaffittarsi una parte di casa e farla risultare come ufficio di un eurodeputato, non è il caso di Manfred Weber, che è in una casa adiacente alla propria proprietà, e son sicuro che dal punto di vista delle norme di Strasburgo e Bruxelles è totalmente regolare. E va bene, e allora andiamo avanti così, nel rispetto delle norme. Allora, questo è l'articolo che mi fa pensare della giornata. È un articolo che trovate su Repubblica, riguarda la vicenda dell'autore di Gomorra, Roberto Saviano, e di altri libri di successo mondiale, condannato per camorra, torna avvocato. Racconta Repubblica la storia di Michele Santonastaso, l'avvocato che per i giudici nel corso di un maxi processo, il maxi processo d'appello Spartacus, ha firmato e letto minacce aggravate dalla finalità mafiosa contro lo scrittore Roberto Saviano e contro alcuni magistrati, tra cui Raffaele Cantone, e anche contro la giornalista o la senatrice Rosaria Capacchione. Avrebbe insomma piegato la sua funzione alle strategie criminali che favorirono il boss Bidognetti, capo storico del Gotha. Eppure, nonostante queste accuse, formalmente già oggi l'avvocato Santonastaso può tornare a indossare la toga. Questo perché la sospensione cautelare della professione ormai decaduta al tavolo del Consiglio disciplinare distrettuale dell'Ordine degli Avvocati. Motivo? Sono scaduti i termini. Questioni che avvocati conoscono bene. Sono trascorsi 3 anni dai verdetti di primo grado. L'iter per la radiazione definitiva dall'albo non si può concludere in assenza di sentenza passata in giudicato. L'avvocato Santonastaso ha impugnato la sentenza di primo grado e fin quando non ci sarà l'appello non può tecnicamente essere radiato. Le norme, vedete, le norme, a stretta norma, è così. Commento di Saviano, oggi ha vinto la camorra. Agghiacciante quello che dicono, è una vergogna. Per me la rassegna stampa di Alessandro Milan è una cagata pazzesca! Olè! E allora, alle 7:36 minuti, questo è uno dei primi delle nostre sigle, al 349-238-6666, ma uno dei migliori. Allora, tutti i giornali o molti giornali aprono oggi con il richiamo, con le parole del governatore di Banca Italia Ignazio Visco, nelle sue considerazioni finali. Debito, non performing loans, crescita, ora sforzo eccezionale. Questo è l'invito di Visco, è il titolo anche di pagina 3 del Sole 24 Ore. Leggo dall'articolo di Davide Colombo: il percorso per riportare l'Italia sulla strada della crescita è iniziato, ma deve rafforzarsi. La debole espansione economica in corso da 2 anni va sostenuta. L'esigenza di superare la crisi ha sollecitato e sollecita ancora uno sforzo eccezionale. Per questo non bisogna fare nessuna retromarcia sul terreno delle riforme, sia sul fronte della finanza pubblica, sia su quello del risanamento dei bilanci bancari gravati dai crediti deteriorati, 2 fattori di debolezza ereditati dalla doppia recessione. Il governatore Visco ha chiuso le considerazioni finali con un forte messaggio di fiducia pronunciato nel salone dei partecipanti alla presenza del presidente della BCE Mario Draghi. Sono fiducioso, ha detto Visco, che al di là dell'incertezza politica il nostro paese saprà ottenere risultati che servono l'interesse generale, tenendo conto di chi resta indietro e di chi arretra, liberando l'economia da inutili vincoli, rendite di posizione, nuovi e vecchi ritardi. Ovviamente un discorso basato sul doppio binario, temi nazionali e anche temi europei, anche con una risposta secca all'illusione ricorrente di un'uscita dall'euro. Spesso se ne parla, ha detto Visco, senza cognizione di causa, non servirebbe a curare i mali strutturali della nostra economia. Comunque tutti i dettagli, chi lo vede come un richiamo, certo fiducia ma anche rischio e incertezza, questo almeno è il titolo di pagina 5 del Corriere della Sera, che riassume così il discorso di Ignazio Visco. Incertezza. L'unica certezza invece sembra che si andrà a votare in autunno, pare il 24 settembre. Per che cosa? Su quali programmi? Su quali basi? E c'è tempo questo per sapere. Non vorrete mica sapere tutto così in anticipo, cari italiani. Intanto si va a votare. 3 mesi prima della scadenza naturale della legislatura si va a votare, molto probabilmente si va a votare, non è una cosa stracerta. Ieri si è registrato il durissimo attacco di Renzi nei confronti dell'alleato di governo Alfano, che sapete si lamenta molto per lo sbarramento al 5%, anche perché rischia così di non entrare in Parlamento. E Renzi ha reagito così: se dopo essere stato ministro in 5 governi, ministro di tutto, e non prendi il 5% alle elezioni, non è che possiamo fermare tutto per questo. Insomma, una durissima critica di Renzi ad Alfano, ministro di tutto e non prende il 5%. L'ira di Alfano, Renzi lo liquida. Fiducia sui voucher senza MDP, questo è il titolo che riassume la giornata politica nell'articolo di Monica Guerzoni a pagina 8 del Corriere della Sera. Beh, certo, una dura presa di posizione, secondo La Stampa, pagina 4, Renzi e Alfano ormai sono allo scontro finale, ma anche da parte del centrodestra, non pensate che le cose non siano con coltelli, politicamente parlando, che volano nelle schiene. Guardate qua il titolo di Libero: la vendetta della Meloni, rifaccio il PDL senza il Cavaliere. Perché Giorgia Meloni è un'altra che è lì in bilico con questa soglia al 5% con il suo Fratello d'Italia. Arriverà al 5% se si mette questo sbarramento? Beh, non si sa. E allora Paolo Emilio Russo, su Libero a pagina 5, scrive che la leader di Fratelli d'Italia studia una nuova lista di centrodestra con Fitto e con la Santanchè, oppure un'unione sovranista con Salvini, per non rischiare di rimanere sotto la soglia del 5% che ormai è voluta da Berlusconi. E poi il 5 Stelle. C'è un'intervista di Annalisa Cuzzocrea a pagina 3 di Repubblica a Luigi Di Maio. Sulla legge elettorale l'accordo non è un inciucio. Raggi via solo se condannata. Questo è l'altro fronte del sindaco di Roma. Onorevole Di Maio, chiede Annalisa Cuzzocrea, Renzi ha detto che si può votare in autunno. Lei sarà in campo? Lo decideranno gli iscritti col voto online su Russo, che è questa piattaforma su cui si esprimono gli aderenti al Movimento 5 Stelle. Certo, se le elezioni saranno a ottobre, la roadmap cambia. Non abbiamo problemi a far tutto entro l'estate. Abbiamo sempre detto di essere pronti a votare leggi buone nel merito e finora ci hanno sempre proposto leggi che hanno danneggiato il Paese. Sulla legge elettorale abbiamo risposto alla richiesta del Capo dello Stato con profondo senso di responsabilità. Ci siamo confrontati nelle sedi istituzionali, alla luce del sole, senza inciuci sotto banco, su un modello su cui abbiamo chiamato a esprimersi i nostri iscritti e solo dopo il loro ok abbiamo portato la proposta al PD. Con chi vedrebbe però Di Maio più probabile un'alleanza dopo il voto? Con la Lega o la destra? Con chi appoggerà il nostro programma senza alleanze precostituite? Quindi questo è il punto interessante. Non è che Di Maio dice nessuna alleanza, andiamo da soli, eccetera. Anche perché questo sistema elettorale prevede le alleanze dopo da fare in Parlamento. E quindi Di Maio questo non lo esclude. E poi Nino Di Matteo, che è un magistrato, sarà il vostro ministro della giustizia? Dico solo che la sua disponibilità è una buona notizia. Ecco perché c'è un altro fronte. Qualcuno vede nel Movimento 5 Stelle già il nuovo partito dei magistrati. C'è stato un convegno ieri convegno sulla giustizia organizzato dal Movimento 5 Stelle, c'era Cantone, c'era Di Matteo, PM a Palermo, che ha detto, beh, i PM sono utili alla politica. C'era Pier Camillo Davigo, che invece ha detto, di fronte all'ennesima abbozzata richiesta di candidarsi, Davigo ha risposto con un netto no. Io dei politici mi occupo quando rubano, il che fa una certa differenza. Avete capito il rigore di Davigo? Ecco, infatti Giovanni Bianconi sul Corriere della Sera: in politica Davigo dice no, Di Matteo lascia una porta aperta. La porta aperta all'alleanza, alle alleanze col PD, la lascia anche Berlusconi. È interessante il retroscena di Marco Galluzzo a parlare, a pagina 11, di quello che potrebbe essere la strategia di accordo con il PD da parte di Berlusconi. Cioè, secondo questo articolo di Galluzzo, ad Arcore parlano anche di accordo sia di governo sia di programma, dove con la prima parola si indicano proporzioni flessibili di dicasteri da assegnare ora al Partito Democratico, ora al partito dell'ex Cavaliere, quindi proprio i ministeri da dividere. Con la seconda, cioè l'accordo di programma, si fa capire che anche sull'agenda di un governo di larghe intese gli abboccamenti sono in fase avanzata, in primo luogo su una forte spinta alla riduzione della pressione fiscale. Quindi in pubblico Berlusconi ovviamente sta un passo indietro, dice che l'accordo sulle regole non è un accordo sulla prossima legislatura, non è un accordo politico, ma privatamente, grazie a Gianni Letta e a Nicolò Ghedini, avvocato di Berlusconi, invece ci sono i possibili accordi sul programma e sul governo tra Forza Italia e Partito Democratico. Caro Mauro Meazza, capisci? Caro Milan, anzi caro debosciato, perché ho appreso appunto che domani non sarai presente. Questo è inqualificabile, un comportamento inqualificabile. Un venerdì a te, un venerdì a me. Vabbè, comunque ti voglio invitare alla meditazione, sfogliando il Sole 24 Ore e aprendo le pagine 6 e 7. Sì. Perché tu dici le pagine 6 e 7? Perché proprio quelle. Apprenderai così, e poi potrai anche meditare, cosa che invito, che estendo anche agli ascoltatori, su queste due circostanze. Allora, ci sono dei buoni dati sull'occupazione, trainata anche da un recupero da parte di chi ha più di 50 anni, gli over 50. L'occupazione, insomma, migliora, non è ancora ai livelli pre-crisi, ma migliora. Poi però, se passi a pagina 7, vedi che invece l'inflazione non risale, cioè quindi prezzi al consumo, eccetera, eccetera, insomma non c'è abbastanza spinta alla crescita. Allora tu prendi queste due pagine, medita attentamente prima nella pagina 6, poi nella pagina 7, e da queste meditazioni trai anche delle conclusioni. Non è tutto, perché questa splendida opportunità si completa con la riflessione sulla manovrina, cosiddetta manovrina. Perché ieri è stata una giornata decisiva. Per davvero, però, perché è arrivato il voto di fiducia. Tutti i particolari su alcune cose che sono contenute nella manovrina, che ancora non è definitivamente convertita, ma insomma, quello lì è più o meno l'impianto che verrà confermato, ci si aspetta che venga confermato dal Senato. Ebbene, tutti i dettagli sono, dicevo, su norme e tributi. Ma c'è un dettaglio, tu sai che il diavolo è nei dettagli. Ah, nella coda, sì. Non ci sono correzioni per quanto riguarda l'aumento dell'IVA connesso alle clausole di salvaguardia. Se tu leggi attentamente, come sempre devi fare, Marco Mobili e Marco Rogari, vedi che su quello nessuna novità. Quindi dal 2018, questa è. Vabbè, siamo nel 2017 adesso. Perché preoccuparsi anzitempo. Infatti. Hai ragione. Allora guarda, intanto tutti questi che programmano le cose fastidiose con le liste da fare. Pensa oggi. La clausoletta di salvaguardia un pochino di timori me li procura. Senti, ti voglio ricordare naturalmente che oggi, essendo giovedì, c'è Casa 24. Sì. con un confronto molto interessante dell'ottimo Dario Acquaro sui costi per la prima e per la seconda casa. La seconda casa costa parecchio di più della prima, come potrai apprendere anche con l'ausilio di una grafica che puoi mostrare agli ascoltatori. Eccola qua, chiarissimo. Come invito alla meditazione, questa volta di sapore più globale, ti segnalo questa uscita, questa indiscrezione su Trump che se ne andrebbe dall'accordo mondiale sul clima. Ecco, ne riferiamo naturalmente, vedremo perché non c'è ancora una conferma ufficiale, ma insomma le indiscrezioni sono sempre più frequenti. E infine sappi che non è detto che una critica all'azienda fatta su Facebook comporti il licenziamento. Leggi tutti i particolari. Sei salvo, temevi un po', Beh, diciamo che io cerco di essere sempre molto garbato, ma qualche volta, si sa, il social trascina anche delle reazioni inconsulte, come ricordavi del resto tu anche in apertura oggi della rassegna stampa. Cazzeggiando al mattino, l'ultimo libro di Alessandro Milan. Chi è questo genio che ha mandato? Non ho scritto libri, per la verità, quindi nell'ultimo, nel primo, nel secondo, nell'ultimo. Comunque, allora signori, questa è una notizia che ieri è stata annunciata in persona da Bjørn Kjos, che voi dite, e chi è? È il numero uno di Norwegian Air, la compagnia low cost nata in Norvegia, e che sicuramente rivoluzionerà molto per quel che riguarda il mercato aereo anche le possibilità di viaggi da Roma, proprio tra l'altro nei giorni, nei mesi, negli anni per la verità in cui si parla di crisi eterna di Alitalia. Cosa ha annunciato Norwegian? Ha annunciato che da novembre ci sarà il volo Roma-New York e poi dal marzo dell'anno prossimo Roma-Los Angeles con meno di 200 euro. Roma-New York 180 euro. Avete capito? Evidentemente si può fare, se Norwegian lo fa, si può fare. Norwegian apre la corsa voli low cost da Roma agli Stati Uniti, a novembre New York e Los Angeles con meno di 200 euro, poi San Francisco, e tra l'altro Bjørn Kjos, che è il numero uno di Norwegian Air, viene intervistato da Repubblica a pagina 13. E dice: alla fine ce l'abbiamo fatta. Per quel che riguarda l'Italia e gli Stati Uniti, devo dire che il via libera al collegamento da Roma verso il Nord America è stato relativamente semplice. Questo ci offre la possibilità di allargare lo sguardo ad altre rotte molto interessanti. E la domanda chiaramente arriva: ma l'idea di avere fatto questi voli è casuale proprio nel momento peggiore di Alitalia oppure no? Amo Roma e mi piace viverla, ma non guardo ad Alitalia. Abbiamo piani chiari dei quali non facciamo mistero e queste nuove tratte da Fiumicino verso gli Stati Uniti fanno parte di un progetto avviato nei mesi scorsi. E tra l'altro annuncia Bjørn Kjos che non ci si ferma qui. Per ora il Nord America e poi puntiamo al Sud America, all'Argentina e all'Africa. Comunque sul sito di Norwegian Air ci sono già i biglietti per andare negli Stati Uniti. Stati Uniti dove, come abbiamo sentito anche da Mauro Meazza, c'è un presidente che sta per prendere una decisione annunciata sotto traccia anche nella visita che ha fatto di recente in Europa, ma che sembra una decisione imminente. Che cosa? Uscire dal patto sul clima a Parigi. Secondo i suoi consiglieri, Trump vuole uscire dall'accordo di Parigi. Giuseppe Sarcina, pagina 2 del Corriere. Ora Donald Trump e il siriano Bashar Assad hanno una cosa in comune. Sono gli unici due leader mondiali a rifiutare l'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici. In realtà ci sarebbe anche il Nicaragua, che però non ha aderito perché considerava insufficienti le regole del protocollo sottoscritte a dicembre 2015 da 195 stati. Parte un po' da questa provocazione Sarcina, no? Accomunare su questa decisione Trump e Assad. E aveva detto: annuncerò la mia scelta nei prossimi giorni su Twitter. Trump, prima di avere su Twitter scatenato l'ironia, il panico, il putiferio per una parola strana invece che ha fatto un altro tweet, questo Coffifi, che chissà cosa vuol dire. In ogni caso, la domanda numero uno è semplice: il ritiro americano vanificherà gli sforzi globali per contrastare i cambiamenti climatici? Questa è la domanda che si pongono tutti, si pone tutto il mondo, e che anche il Corriere cerca di porsi a pagina 3 con delle risposte. La domanda è: ora cosa cambia? Questo è il concetto. Oh, voglio saltare sul Giorno, perché il Giorno è l'unico giornale che ha in apertura e a pagina 2-3 questa notizia che riguarda un nuotatore importante, Filippo Magnini, oltre che nuotatore anche, lo sapete, fidanzato di Federica Pellegrini, anche se si prendono e si mollano ogni 3 mesi, l'ultima pare che si stiano mollando, ma non lo so, chi se ne frega. Allora, il titolo di apertura del Giorno è questo: attenzione, doping, relazioni pericolose. È un'inchiesta di Pesaro, a pagina 2 e 3 del Giorno ci sono tutti i dettagli. Roberto Damiani racconta che per un PM di Pesaro c'erano delle sostanze dopanti indirizzate al nuotatore Filippo Magnini. Certo, c'è da dire che il GIP, quindi il giudice per le indagini preliminari, dice non ci sono prove, lui non è indagato, però tutti i dettagli di questa indagine portata avanti dalla procura di Pesaro la trovate, pagina 2-3 del Giorno, il titolo di prima pagina del Giorno, doping relazioni pericolose, c'è la foto appunto di Filippo Magnini. Siamo però alla carta costa, articolo più inutile scovato sui giornali, oltre che articolo inutile, in realtà inutile, insomma non lo so. Fate vobis. Il titolo, dico solo questo. Pagina 17 del Giorno, un'intera pagina. La moda francese si allarga. I peni si possono allungare. Esultanza tra le signore. Ma chi se ne frega?